Sì, certo. Allora, devo dire che il 13 maggio ci sarà la sentenza di questo processo che inizia nel 2017 con l'arresto di Aldo Milani appena terminata una trattativa con l'accusa di estorsione. Questa era la contestazione, perché avrebbe chiesto insieme ad un tale che è un rappresentante delle cooperative, dei consorzi di cooperativa, dei soldi perché venisse evitato lo sciopero, il picchettaggio di un'azienda, in questo caso che si occupava di lavorazione della carne di maiale nell'ambito di quello che era il consorzio il centro alimentare di Modena. Devo fare una premessa. Allora, innanzitutto, per chi non conosce la realtà, soprattutto dell'Emilia, soprattutto nel settore della lavorazione degli alimentari, bisogna precisare che questo settore è gestito da cooperative che fanno della compravendita dei falchini la loro unica attività, e di fatto l'intera manodopera di diverse aziende, importantissime aziende, stiamo parlando di fatturati di centinaia di milioni di euro annui, sono di fatto prive di operai diretti, ma semplicemente la cooperativa svolge l'attività di lavoro e tutti i dipendenti sono inquadrati sempre con contratti fantasiosi di falchinaggio, mentre si occupano, nel caso dell'azienda per la quale Aldo stava effettuando questo tipo di trattativa, si occupano della lavorazione delle carni, quindi tolettature e di sosso. Che cosa succede? Che queste persone, alcuni di questi svolgevano attività all'interno del settore di quell'azienda proprio da circa 17 anni, hanno un percorso molto accidentato, nel senso che ogni 2 anni devono essere licenziati e riassunti dalla nuova cooperativa perché la precedente fallisce, lasciando la solita coda di mancati versamenti contributivi, mancato pagamento delle retribuzioni o pagamento parziale delle retribuzioni e mancato pagamento del TFR. Nel caso di specie, oltre a questo tipo di coda economica, vi era anche il licenziamento di 55 persone, quindi diciamo un'avvertenza in cui c'era da parlare del licenziamento, della buonuscita e delle differenze retributive. E, a livello così economico, tengo a precisare che la richiesta per queste persone, la richiesta economica del SICOBAS era di circa 800.000 euro e successivamente vennero fatte delle conciliazioni giudiziali per 500.000 euro. Questo per dare idea del numero, dei numeri di cui stiamo parlando. All'interno quindi di questa trattativa, che cosa succede? Che i titolari di questa azienda presentano una denuncia e dicono: noi siamo oggetto di un'estorsione perché abbiamo questo sindacato, il SICOBAS, che da circa 2 mesi sta effettuando delle azioni di picchettaggio all'esterno dell'azienda che ci impediscono di svolgere la nostra attività e ci chiedono dei soldi per i lavoratori, e riteniamo questa una estorsione. La polizia mette sotto intercettazione i telefoni di diverse persone, non quello di Milani, e il 26 di gennaio viene stabilita la data in cui Aldo Milani sarà presente all'interno dell'azienda per una riunione su come definire questa partita. Questa riunione viene sia intercettata che videoripresa e le persone, cioè i titolari di questa azienda, vengono, lo scopriremo successivamente nel corso del processo dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di funzionari della Digos, e queste persone viene richiesto, tra virgolette, di cercare di far parlare i Milani in un senso proprio di tipo estorsivo, come dire, di fargli dire il più possibile le cose che potessero andare a fondare questo tipo di accusa. Morale della favola, all'interno c'è un video che è stato poi dato alla, cioè la RAI lo trasmise nel telegiornale della sera, RAI 1, quindi ci possiamo immaginare il livello di pubblicità, eccetera. E nel corso di questo video si vede una persona, questo titolare di questa azienda, che passa una busta bianca ad un'altra persona che naturalmente non è Milani. Successivamente questa viene considerata la prova regina del procedimento. Milani non poteva non sapere che in quella busta ci sarebbero stati 5.000 euro per il titolare di un consorzio di cooperative che era lì presente, che fungeva da mediatore, e che questo è il prezzo dell'estorsione, cioè il prezzo del pagamento, del prezzo di fatto evitare che il sindacato ponesse ancora in essere attività di sciopero di picchetto. Il processo inizia e va avanti, un processo molto difficile, molto duro, dura circa un anno perché viene scelto un rito immediato da parte della procura, è così certa delle proprie prove che decide di mandare immediatamente a processo. Noi facciamo una scelta di non procedere con un rito abbreviato, ma di procedere con un giudizio dibattimentale, presentiamo le nostre prove e i nostri testimoni. Viene richiesta da parte nostra una perizia di tutte le intercettazioni che vengono fatte, cioè intercettazioni telefoniche, ambientali, e il primo dato è che nell'ambito dell'intercettazione ambientale, cioè di quello che accade il giorno in cui viene data questa busta, mentre nell'ordine, diciamo nell'ordinanza custodiale, quindi nell'ordinanza che fa riferimento all'arresto di Aldo Milani, è scritta la frase che il datore di lavoro avrebbe detto "io vi do", nelle trascrizioni della perizia, nell'audio, si sente chiaramente che questa persona dice "io ti do", riferendosi a quest'altro, al titolare del consorzio che è all'interno di questa riunione. Questo è fondamentale da parte nostra perché si evidenzia che c'è stato un inquinamento investigativo, nel senso che è stata tradotta in maniera lesiva dei diritti di Aldo Milani quella particella, cioè il V al posto del T, che naturalmente è stato oggetto poi alla fine questa considerata una delle prove, un elemento indiziario importante per confermare il suo arresto. Ti ringrazio. E nell'ambito di quelle che sono le emergenze dibattimentali, nel corso di una dell'escussione di un test che è uno dei dirigenti della Digos di Modena, emerge che il giorno dell'arresto lui avrebbe telefonato al titolare dell'azienda dicendo "è successa questa cosa, è stato un enorme successo perché noi finalmente abbiamo fatto fuori il Sicobas, abbiamo arrestato Aldo Milani, che come arrestare la Camusso, no, anzi che dico la Camusso, ma Luciano Lama della CGIL degli anni d'oro". Così si esprime. Il controinterrogato in sede di dibattimento, questa persona dice "no, non sono io la persona al telefono", poi però deve ammettere che quella utenza telefonica è a lui intestata e conseguentemente per forza è la persona al telefono. E naturalmente nel processo non vengono sentite, scusami, soltanto queste due persone, ma decine di testimoni che dicono di com'è, di che tipo di vertenza fosse, di quali fossero, diciamo, quale fosse la sostanza e di quale fosse l'atteggiamento da parte dell'azienda nei confronti del sindacato. Ti ringrazio per il quadro che ci hai delineato, che è estremamente chiaro e anche preoccupante a mio e a nostro avviso, perché appunto descrive una situazione in cui i padroni, insieme in questo caso alle istituzioni, non si fanno scrupolo di ordire, potremmo dire quasi un complotto, per mettere a tacere le lotte sindacali e le lotte in generale delle, che si danno sui territori. E, il quadro è preoccupante da un certo punto di vista, ma avendo seguito un po' anche l'evoluzione del processo, mi sembra di aver notato che parte delle vostre controdeduzioni sono state accolte anche dai PM, cioè la posizione stessa dell'accusa si è ammorbidita nel corso dei mesi, se non sbaglio. Sì, infatti in sede di conclusioni la pubblica accusa chiede certo la condanna di Mugnani, ma ad una pena dimezzata rispetto a quella che sarebbe il minimo della pena prevista dalla legge per l'estorsione, perché ricordiamoci, l'estorsione è un reato sia gravissimo che odiosissimo, in ogni caso è un reato riferibile alla criminalità organizzata, quindi ripeto, dal mio punto di vista ancora più odioso se riferito ad una persona che si occupa di attività sindacale. E viene chiesta l'applicazione di una circostanza attenuante, che è quella di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, costituiti dal fatto di non avere, di non chiedere e di non tenere per sé i soldi, ma di chiederli per i lavoratori. Ora, questo passaggio, sebbene dal punto di vista, tra virgolette, di un difensore che difende che viene da Marte, può essere considerato un passaggio positivo, perché comunque invece di 5 anni si chiede una pena di 2 anni e mezzo, dal punto di vista di un'analisi generale è un passaggio assolutamente pericoloso, perché se effettivamente l'attività che io svolgo, la mia attività normale, che è quella come sindacalista di chiedere alle aziende di effettuare dei pagamenti di naturalmente retribuzione o contributi dovuti e non versati, e se a fronte di questo io proclamo stati di agitazione e faccio azioni di sciopero e azioni di picchettaggio, se tu ritieni questa attività un'attività estorsiva, beh, allora è finito il sindacalismo, sia di base che addirittura confederale, perché non ci scordiamo che a questo punto l'unica attività possibile è quella di dire sì sì, avete ragione voi, perché non esisterebbe possibilità di svolgere nessun tipo di pressione nei confronti dell'azienda se lo svolgimento di un'attività di lotta a fronte di pretese legittime che si svolge con gli strumenti storici del movimento operaio, che sarebbero gli scioperi e i picchettaggi, sono considerati degli strumenti estorsivi. Capiamo che qui la pericolosità raggiunge dei livelli elevatissimi. Esatto, cioè si può creare un caso giurisprudenziale su questo, cioè, che potrebbe andare in un futuro prossimo a modificare anche le relazioni sindacali, le relazioni industriali. Capisco e capiamo benissimo la pericolosità di questo fatto, e proprio per questo ti chiedo come ultima domanda quali sono le vostre aspettative riguardo alla prossima udienza del processo, e cosa vi aspettate anche a fronte del grosso movimento di solidarietà che c'è stato attorno a questa vicenda. Infatti abbiamo potuto leggere in calce all'appello che avete pubblicato centinaia di firme di singole associazioni, avvocati, compagni e compagne di tutta Italia, che si sono spesi molto per portare solidarietà a questa vicenda. Sì, innanzitutto io ringrazio tutti quelli che ci hanno appoggiato e hanno espresso solidarietà, perché il processo è stato difficile, molto complicato, in un'atmosfera che è quella di Modena, che è un'atmosfera pesante, perché in cui c'è una grande commistione tra il mondo imprenditoriale e quello politico, ancora maggiore rispetto a quello a cui normalmente siamo abituati. Siamo stati oggetto di campagne di linciaggio mediatico che non hanno equivalenti, e quindi e lo siamo tuttora. Quindi il fatto di avere tante persone che ci sono vicine non può essere altro che fonte di grande energia e positività per noi. Noi in questo processo abbiamo dato tutto, tutto quello che potevamo fare al massimo, e è difficile che almeno io sono una persona sempre molto ipercritica nei miei confronti, cercando anche di fare una moviola su tutto quello che c'è stato, è stato uno dei pochi forse momenti dal punto di vista professionale in cui non è mai stato fatto un errore in nessuna maniera. Quindi da questo punto di vista io posso dire noi abbiamo dato tutto, abbiamo proprio, come ho detto sempre anche in precedenza sui giornali, abbiamo fatto un'operazione verità, abbiamo messo a nudo il sindacato nelle sue, nei suoi obiettivi, nelle sue persone, nei suoi dirigenti, nei suoi conti, l'abbiamo messo completamente a nudo davanti ad una magistratura anche molto al di là di quello di cui forse potevamo avere bisogno in quell'ambito penale, e lo abbiamo fatto proprio perché riteniamo che fosse fondamentale difendere con verità. Non ci siamo mai nascosti a nulla, abbiamo sempre risposto nella stessa maniera, con le stesse parole dal primo interrogatorio, e questo devo dire che Aldo ha effettivamente avuto un grande coraggio, perché diciamo che i difensori tremano sempre quando i propri assistiti, soprattutto assistiti in carcere con quel clima, dicono sì, voglio rispondere al primo interrogatorio, quindi a carte coperte e soltanto con la conferenza stampa della questura e con un video manipolato che viene mandato su tutti i TG. Detto questo, come sempre noi ci aspettiamo cose belle, naturalmente penso che non possiamo che essere un momento prima della sentenza che altamente ottimisti, ma direi che a questo punto, così come prima di una, diciamo, di una finale scudetto eccetera, finale importante, dobbiamo soltanto tenere dita incrociate e naturalmente far emergere il nostro lato superstizioso rispetto al lato razionale. In ogni caso, così come ho detto nella mia arringa finale, il Sicobas è questo: tocca uno, tocca tutti. E mi sento di poter allargare anche quest'ultimo appello che hai fatto anche direi oltre il Sicobas, cioè nel senso noi vi siamo accanto e pensiamo appunto che gran parte del mondo dei compagni e delle compagne, anche di tutte quelle persone che in Italia si stanno battendo per un futuro migliore, vi è accanto, e l'ottimismo è quello che ci è il sentimento che ci sentiamo di condividere con voi, e anche un augurio ad Aldo e a tutte le persone che sono colpite oggi da questi provvedimenti giudiziari, perché sappiamo che il suo è un caso emblematico, ma come lui ci sono altre centinaia se non migliaia di persone che per aver fatto delle lotte giuste in ambito sindacale o in altri ambiti stanno subendo la repressione da parte dell'apparato giudiziario e poliziesco. E con questo quindi ti ringrazio nuovamente per quest'ottima relazione e corrispondenza, e ci teniamo aggiornati nelle prossime settimane, e in particolare per l'esito di questa sentenza. Grazie a voi, ciao Onda Rossa, è sempre un grande piacere. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. E abbiamo appena sentito l'avvocata di Aldo Milani, responsabile nazionale del Sicobas, che sta subendo appunto da mesi, e che arriverà a processo in queste proprio in questi giorni, appunto su di lui un'inchiesta che lo accusa di estorsione all'interno di trattative sindacali. Continueremo a parlare di questo stesso tema e del tema delle lotte dei lavoratori e del, appunto, del sindacato di base, insieme a un compagno del Sicobas di Roma che andremo a sentire subito dopo questo stacco musicale.